YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Eccoci con il nostro appuntamento, dai, lo diciamo, con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, web TV e social TV. Sono molto interessato sia a Masha e l'orso che hai sentito, sia al signore che hai incontrato lì al supermercato con le fragole e lo champagne. Vabbè, ma è vera la storia, eh? Eh sì, non ci raccontare, ragazzo, come è finita. No, vabbè, certo, non ci raccontare, non siamo in fascia protetta. Non lo posso sapere. Vabbè, era dietro di me con un cestello, aveva questi tre, lo dico, fragole, champagne e profilattici. Ci ho detto, vabbè, bella serata. Tu lo sai che tu, il 70% dei racconti che noi facciamo sui social network, sì, dintorni, anche quando mettiamo nomi, sono nostri. Sì, no, autobiografici. Guarda, e chiuserei con un hashtag magari. Magara. Ma non era, non vabbè, invece me. L'hashtag vero è RadioTube, sì. Quello del sabato del villaggio è ISDV. Sì. Mentre i nostri account sono @MartaCagnola @DiBellasio. Abbiamo già fatto un Periscope, sì. Anzi, no, tu hai già fatto un Periscope, sì, poco fa. Adesso capisco se lo posso condividere. Era praticamente un lancio della nostra trasmissione, detta anche Marta e l'Orso. Marta e l'Orso, per dopo Masha e l'Orso, è impazzito. Io, sì. Chiocciola Marta Cagnola, carino. Ah, non avevi capito? Non ho capito. Ma che è, scusa, ma e chiocciola l'Orso di Bellasio, l'hashtag cancelletto, sì, RadioTube. Detti, Serietà. Sì, oggi è il 25 aprile. Oggi è un giorno aprile, importante. Sì. Ma io infatti no, non serietà. Perché io sono molto favorevole, non so, ho letto oggi, qualcuno diceva sui giornali, 25 aprile deve essere una festa. Ah, certo. Cioè, in piazza, cantare, gioire, riprodurre la festa. Meno convegni e più feste. Il 25 aprile è un giorno di gioia, proprio perché ci sono stati tutti quei sacrifici prima. Sai che però un sacco di gente non sa perché si festeggia? No, appunto. Perché deve essere una festa, così lo sa anche quella gente lì. Allora, mi hai segnalato poco fa, perché io ero in onda, mi hai mandato il video e l'ho subito catturato per, sì, la nostra trasmissione, un servizio che è andato in onda a Ballarò. Di Eva Giovannini, brava giornalista TV reporter, come scrive nella biografia profilo di Twitter. Sì, dove si dimostra che se alcune cose restano nei convegni, solo le persone che partecipano ai convegni sanno cosa sono quelle cose. Perché se vai in giro per la strada, in un quartiere così, durante il momento del passeggio, e trovi ragazzi più o meno 20, 30, anche quarantenni, e sì, chiedi loro, sì, anche di più, ma certo, che cosa succede? Perché il 25 aprile? Che cosa hanno risposto? Tutti hanno azzeccato, no? Come potete immaginare. Sentiamo. 25 aprile è una festa nazionale in Italia. Che cosa si festeggia? La festa? Non lo so. Sinceramente non so rispondere. È la festa della? Della festa della Repubblica. No, aspetta. Liberazione. Liberazione, esatto. Da che cosa? Mi trovi impreparata, scusami. Dal fascismo, no? Siamo nel 1900. 60, no. 25 aprile del 5. No, cavolo, io per storia sono sempre andato male, cavolo. Se mi facevate qualche altra domanda, tipo di geografia, era meglio. Capito, tipo di geografia. Comunque questo è vero, è la sopravvalutazione della geografia sulla storia il problema. Meno male che sai, geografia uno va a fare i viaggi. Vabbè, quindi, senza parole, come no, la però non è colpa, capito? Non è colpa soltanto di chi non sa queste cose. È colpa del fatto che certe cose restano solo nei libri di scuola e nei convegni accademici. Non dico che non debbano essere fatti anche quelli, ma siccome è una festa dove, cioè, 4 luglio negli Stati Uniti si festeggia. Le feste nazionali sono feste. Ah, sto esagerando. Mi piace questa mozione, Bellasio. No. Si è accalorato, mi piace, no, mi piace moltissimo. In Italia noi abbiamo l'ardire che ogni cosa che deve essere seria deve essere anche seriosa. Non è così, no? Sembri Gianni Morandi. Sì, boh. Gianni Morandi. Vorrei voltare pagina, come Gianni detto prima. Morandi. Tu l'hai scoperto tu. Altro che Pippo Baudo. Ma noi abbiamo intervistato Gianni Morandi su Facebook, sì, ma mesi e mesi fa, perché avevamo già scoperto la sua parla. Però questa volta è stato straordinario. Team leader, proprio un leader, un influencer. Esatto, come esatto. Sentiamo, beh, intanto entriamo un po' in atmosfera Morandi. Cantando. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Tra un video e l'altro in cui lui suona, perché sì, lui straordinario si mette davanti al, probabilmente allo smartphone, il tablet, non lo so, e suona, sì, a un certo punto lui ha messo su Facebook convinto secondo me di scrivere una cosa tutto sommato tranquilla. Sì sì, lui, ma infatti secondo me la sua reazione poi, allora, due foto a confronto, una in bianco e nero, un barcone di italiani che partivano per il mondo all'inizio del Novecento, e una a colori con i profughi del Mediterraneo, una foto recente che potevano sembrare i profughi che potevano essere partiti e purtroppo mai arrivati nei giorni scorsi. E sopra le foto lui ha scritto: a proposito di migranti e di migranti, non dobbiamo mai dimenticare che migliaia di italiani nel secolo scorso sono partiti dalla loro patria verso l'America, la Germania, l'Australia e il Canada con la speranza di trovare lavoro, un futuro migliore per i propri figli, eccetera, eccetera, eccetera. E uno dice, giusto, bravo, like, no? No. No? Una valanga di insulti. Sì. Taci tu, sei ricco, fai la predica dalla villa, ospita tu quei ladri, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, sappiamo che ci sono gli haters, quelli che ti tirano fuori il peggio di chiunque. La cosa che a me ha fatto impazzire è che... è che lui si è messo a rispondere. Sì, uno a uno si è messo lì. Con calma. Ma perché non se l'aspettava? Perché non era costruito. Sui social network funziona ciò che non è costruito. E lui, messaggino per messaggino. Io oggi poi ho riaperto il suo profilo perché volevo vedere un po' come andavano le cose. E c'era una persona che gli ha risposto: ah, ecco, allora tu rispondi solo a quelli che la pensano come te e quelli che no. E lui ha risposto: no, scusa, perché ho tanti messaggi a cui rispondere. Comunque, guarda, un grosso abbraccio. Ma lui è straordinario. Sì, no, sa usare sicuramente il mezzo. È incredibile che uno dica una cosa così normale e succeda il finimondo. Tra l'altro paga il fatto di essere Gianni Morandi, perché come da una parte non potesse parlare di questi argomenti, dall'altra solo perché uno ha avuto successo nella vita, quindi si deve, come dire, censurare di ogni problema. Parla solo di cose belle. Ovviamente scontro con Salvini, che l'ha criticato. Sì. E io sentirei come ne ha parlato Crozza. Sentiamo un po' di satira. Crozza. Gli altri, quelli dell'opposizione vera, no? Tipo Grillo, Berlusconi, Salvini, cosa stanno facendo? Vabbè, Salvini è giustificato perché Salvini in questo periodo, come dire, non ha tempo per Renzi, è concentrato in una battaglia molto più importante, e se vince questa per la Lega è fatta. Matteo Salvini attacca Gianni Morandi. Sapete quanta gente si è fatta mandare dalla mamma a prendere il latte? Ve lo dico io, zero, nisba, picche, nada. Uno su mille ce la fa, va bene, ci sto dentro. Ma quell'uno è forse padano? No, non credo. Il signor Morandi andava a 100 all'ora per trovare la bimba rom? Liberissimo, liberissimo. Banane e lamponi sono forse del nostro territorio? Non credo proprio. Se Gianni Morandi avesse il cuore alle nostre tradizioni, canterebbe la canzone Polenta e Cassela. L'ha mai fatto? Non mi risulta. Morandi di Ghisa. Però Polenta e Cassela mi piace. Adesso allora, nella pausa, mentre sentiamo le indicazioni per il traffico, mi canto un po' di Polenta e Cassela e ci ritroviamo tra pochissimo. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta YouTube. Satira, satira, perché spesso la satira, la televisione, ma anche in rete raccontano molto la realtà. Visto che siamo in tema Crozza. Sì, siamo in tema Crozza, non quasi so sempre, se... peraltro. Beh, ci dà soddisfazioni. Ultimamente dà grandi soddisfazioni. Non sempre, perché io non sono a critica, anche se tu dici che io sono pazza di Crozza. Sì, no, a volte pazza. Mi piace di più, a volte mi piace di meno. Questa cosa che ha fatto a Crozza delle Meraviglie, chapeau. Ha fatto? Allora, la canzone è Magnifico di Fedez. Mm. Ah, sì, lui bella, bella. Lui l'ha cantata tipo Guccini. Sì. Però interpretava, insomma, il duetto Renzi-Guccini, nel quale lui esprime le possibili obiezioni di Guccini a Renzi. A Renzi. Cantando una canzone di Fede. Sì, cattivello. Cattivello, sì. Il testo è forte. Il testo ma lui è forte. Fa tutte e due le parti, no? Le fa tutte e due. Sentiamone un pezzettino. Ecco cosa ha fatto Maurizio Crozza. Dice Francesco, vieni alla festa. E io rispondo, son mica matto. Non sono buono a chinar la testa. Io a ste cose non son mica adatto. Dite pure che son vecchio, che son da rottamare. Ma sushi con le alghe non lo voglio mangiare. Io voglio il vino, i ciccioli di grasso. Ho nostalgia di Gramsci e mi ritrovo sto gradasso. Cantavo le canzoni con dei temi sociali. A questi frega solo di finire sui giornali. Per far due riformine rinunciano alla storia. E se li guardi bene vedi arroganza. Poi venivamo da lontano con le nostre bandiere rosse. Ora andiamo con l'Alfano come se niente fosse. Il popolo era fiero, il popolo era sveglio. Ora voi parlate inglese per incularlo meglio. Ma non vedi che tutto è magnifico? Faccio un selfie al mio ego ipertrofico. Faccio un selfie. Bravo. Al mio ego ipertrofico. Bravo, l'ho detto. E il testo è forte, la satira è ruvida. Però beh, è stato bravo. Sì, sì, no, è stato bravo. Bella l'idea, bella la canzone. Bello tutto. Un altro tocchetto di satira prima di parlare. Sì, allora, sì. Ieri sera io sono stata a vedere allo Zelliga Milano. Su Facebook, eravate lì, sì. Tu, Adriano Attus, sì, il creative director del Sole. A vedere Carini, il terzo segreto di satira. Noi spesso li abbiamo fatti sentire in radio, però era la prima volta che io li vedevo a teatro. Hanno fatto i loro sketch, mostrato i loro sketch in rete e anche a Piazza Pulita. Però bello, no? Dalla rete alla televisione al teatro. Al teatro, perché come tutti tornando gli indietro. Attori poi sulla... Ma guarda, io ho riso proprio tanto e soprattutto mi sono vista questo sketch che io mi ero persa a Piazza Pulita. Goodbye Bossi. Sì. Hanno rifatto Goodbye Lenin con uno zio che si sente male, che va in coma, un zio leghista. Mm. Che si risveglia, ma non vogliono fargli capire quello che è successo nella Lega perché potrebbe essere troppo pericoloso per il suo cuore. Allora gli mettono in scena Goodbye Lenin, forse l'avete visto il film tedesco in cui mettevano in scena la Germania Est. Mettono in scena una Lega in cui niente è cambiato, chiudono a chiave Bossi lo zio ancora, in casa. Ma senti qua, Goodbye Bossi. Come stai, zio? Aggiornami un po', cosa è cambiato in questi anni? È successo qualcosa? È tutto come prima, cosa vuoi che sia cambiato, zio? Il partito come sta? Ma il partito sta benissimo, siamo a più del 16%. Umberto? Bossi l'hanno eletto presidente federale a vita. Chi è il nuovo segretario? È Salvini. Che vuol dire che decide tutto Bossi? Bravo, argo ai giovani. Mi piace questo Salvini, mi è piaciuto sin dall'inizio. Senti, a che punto stiamo con la secessione? Ti sei svegliato giusto in tempo, zio, siamo a tanto così siamo. Perfetto. Straordinario, sì. Io vi consiglierei di cercarlo in rete perché devono raccontare la Le Pen. Guarda, adesso c'è siamo di tutto. Nazionalisti. C'è di tutto. Quindi la satira che racconta la politica che a volte fa satira. La politica che a volte è oltre ogni possibile satira, però per cosa passa tutto? Indovina. Per Twitter, no? Per i social network e soprattutto Twitter. Adesso Periscope. Infatti adesso chiederò anche qualcosa su Periscope. Abbiamo un ospite perché mi ha molto incuriosito questo testo che mi è stato segnalato da Cristian Goldoni, che collabora al confezionamento anche lui del sabato pomeriggio a Colpi di Tweet. La politica in prima persona, le edizioni sono Il Mulino, è fresco, caldo, appena stampato. L'autrice, che insegna comunicazione politica presso La Sapienza di Roma, Sara Bentivegna. Buonasera, professoressa Bentivegna. Buonasera a voi. Buonasera. Professoressa, io... posso dire una cosa? Sì, che sì. Il libro è interessante perché può essere compreso anche da chi non sa nulla di Twitter. Ah sì, perché spiega bene. Perché all'inizio... Sì, è importante, certo. Perché noi ce la raccontiamo tra noi giornalisti che sappiamo Twitter, come funziona tutto il resto. Però anche chi non è su Twitter e non conosce le regole di Twitter può leggere e capire bene questo libro perché all'inizio è spiegato tutto, punto. Non è un caso, professoressa, perché noi scontato, ma... No, infatti l'obiettivo era assolutamente questo, far capire a chi non frequenta la piattaforma come funziona. perché è davvero semplicissimo il funzionamento, ma molte persone ne sono un po', come dire, ne rimangono un po' impaurite, anche per tutti quelli che girano, le conversazioni che appunto si stabiliscono. Diciamo che Twitter sembra molto un mondo chiuso, e lo è da una parte. Nello stesso tempo però è assolutamente permeabile, quindi questo libro voleva far vedere anche come tutti quanti, davvero noi cittadini in prima persona, possiamo poi prendere la parola su Twitter. Oppure anche soltanto leggere, tipo Dick Costolo, CEO di Twitter, qualche giorno fa ha detto che non è obbligatorio parlare su Twitter, basta leggere per... Infatti. Come... E io stavo leggendo, stavo leggendo certo, adesso un pezzo molto divertente su The Guardian, uscito proprio oggi, che si chiede se appunto se i social media stanno banalizzando la politica, e lì appunto perché pare che adesso su Miliband abbiano lanciato un hashtag con Milifandom, gestito soprattutto da giovani. Allora lì si chiede in questo pezzo, ma effettivamente è partecipazione politica o che cos'è? E la discussione tra due persone di posizioni diverse è che in fondo comunque è un modo sicuramente nuovo, sicuramente innovativo o inusuale di partecipare, e comunque attraverso questi scambi circolano informazioni, che è la stessa cosa di chi appunto non partecipa alla conversazione su Twitter ma legge quelle degli altri, e quindi viene coinvolto in una conversazione, una discussione che accade tra altri soggetti ma che è pubblica. Ecco, lei nel libro coglie secondo me la ragione del successo di Twitter, cioè spiega che in fondo Twitter ha successo perché è facile, oltre che veloce, è semplice, però 140 caratteri sono pochi. Allora un critico potrebbe dire, ecco un'altra delle ragioni per cui la politica diventa soltanto slogan, cioè 140 caratteri, è così? Senta, io devo dire la verità. Penso che in realtà, e appunto lo scrivo anche nel libro, Twitter sia un po' una cartina di tornasole di cos'è la politica oggi, o cos'è perlomeno una parte della politica, una rappresentazione della politica oggi. Quindi se vogliamo la battuta fulminante che è quella del tweet, se vogliamo l'hashtag che ci dice qual è l'argomento di cui si discute, se vogliamo scambi veloci per poi passare ad altro e che riguardano anche la politica, sicuramente Twitter è perfetto da questo punto di vista. Io però direi che questa velocità, semplificazione o altro, può essere da un lato valorizzata e difesa, ma nello stesso tempo secondo me deve essere integrata con il contributo dei cosiddetti legacy media, perché Twitter, cioè ci può essere una sorta di divisione del lavoro. Twitter ci dice, si sta parlando di questo, se ne sta parlando in questo modo. Poi ci devono essere altri luoghi, secondo me, nei quali la conversazione è più approfondita, si mettono a confronto punti di vista diversi, e quindi è una divisione del lavoro, ci deve essere un'integrazione tra i diversi media oggi. Strane alchimie del tempo, strani meccanismi, strane sincronie si affermano i social network proprio nel periodo in cui arrivano al potere i quarantenni, arriva al potere Renzi, che è stato colui il quale li ha saputi usare meglio e per primo in Italia. Ah, sicuramente, diciamo che al di là del fatto che probabilmente Twitter, Facebook, ma sicuramente Twitter è una piattaforma che si addice a Renzi, l'ha sempre usata, secondo me la usa proprio personalmente e con piacere. Bisogna poi dire che Twitter è anche una piattaforma che consente una, per molti versi, una comunicazione unidirezionale. Si scrive un tweet, lo si lascia lì, lo si affida a tutti e poi non si risponde, non si interagisce. Questa è una grande comodità di una piattaforma che consente una apparente intimità con gli altri, mentre invece si rimane molto distanti e distaccati. E quindi diciamo che in questo tipo di comunicazione Twitter non ha grandi rivali. E poi secondo me risponde anche al fatto che Renzi è una persona molto attenta alla battuta, veloce, fulminante, e quindi sicuramente Twitter è la piattaforma che più si adatta a questo tipo di comunicazione. Ecco, Berlusconi non a caso non è su Twitter perché ha una comunicazione che è profondamente televisiva e quindi ha maggiore difficoltà poi a ridurla a poche battute o anche a scambi veloci di battute. A proposito di comunicazione televisiva, questa settimana è successo qualcosa di molto importante all'interno del Partito Democratico. Domenica sera, Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio e Enrico Letta, ecco la sua dichiarazione. Mi hanno proposto di fare, di guidare la scuola internazionale dell'Università di Parigi, Sciences Po, dal primo settembre. E dal primo settembre mi dimetterò dal Parlamento perché penso che sia... dal Parlamento? Sì, mi dimetterò dal Parlamento perché ritengo che fare questa cosa sia una cosa da fare bene, per bene. voglio vivere del mio lavoro dopo aver vissuto per un po' di anni. Scusi, come parlamento. Ma nel PD lo sanno che lei si dimette dal Parlamento? Adesso penso di sì. Cortocircuito, sì, annuncio in televisione. Bellissimo. Il PD lo sa. Cortocircuito, annuncio in televisione, rilancio immediato sui social network. Ormai la comunicazione è integrata. Cioè, Letta che esce dalla politica momentaneamente con un gesto molto politico, quindi quasi certo. Ci entra. In realtà politico c'è entrato uscendo. Una cosa complicatissima. Lei come commenta questo avvenimento, professoressa? Beh, diciamo che è un po' la risposta all'hashtag ricostruzione. Sereno, nel senso che in quel caso è partita da Twitter. Letta invece ha fatto partire questo nuovo posizionamento, diciamo così, non sappiamo poi dove andrà, a cosa porterà, comunque questo nuovo posizionamento politico in televisione, ovviamente sapendo benissimo che immediatamente avrebbe avuto una ricaduta su Twitter e social media, e questo è il dato poi più importante su cui riflettere, secondo me. Ormai l'ibridazione mediale è tale che appunto i diversi media, televisione, stampa, Twitter, teatro, come ha detto lei prima, appunto nel senso periodo di satira, sono tutti integrati, quindi i passaggi da un mezzo all'altro sono talmente veloci e molto probabilmente appunto dipende dai soggetti quale scegliere in base appunto a propensioni individuali. Lei nel libro racconta anche il fatto che i social network funzionano anche negli grandi eventi di politica internazionale, si ricordava le primavere arabe, sì. La protesta in Iran. Una domanda molto secca e quindi anche un po' sciocca nella sua semplicità: è più facile per un regime controllare i social network o per una protesta organizzarsi sui social network? Ma guardi, io penso che siano vere entrambe le cose, nel senso che sicuramente la protesta trova dei vantaggi incredibili sul fronte organizzativo tramite social network. Questo è accaduto in Spagna, ovunque, nel senso che poi appunto è il passaparola che diventa semplicissimo, immediato e veloce. Nello stesso tempo è anche vero che questo consente poi al regime un controllo che prima era più difficile da esercitare. Io ricordo A colpi di tweet, la politica in prima persona. Professoressa Sara Bentivegna, grazie per essere grazie, stata anche con su noi. Twitter, anche su Twitter, ovviamente. Anche su Twitter. Grazie. Sì, ci siamo appena followate. Grazie, professoressa. Infatti, arrivederci, buon lavoro. Grazie, buona a serata. Prestissimo. Sì, sì, il suo account, l'account della professoressa Bentivegna, ce l'ho qua. Hai detto followate. Io, che vabbè. Brutto. Sì, ho detto followate. Ci siamo appena ammonita. Seguite su Twitter, @ Sara Bentivegna. Ci risentiamo tra pochissimo perché abbiamo una brevissima pausa, poi preparatevi a ridere. Io sono impazzita per questa cosa che sentiremo tra poco. Radio Tube. Rieccoci per la seconda parte del nostro... Dimmi. Marta, ma sì, Daniele, io questa cosa la voglio proprio vedere perché è la prima volta che tu ridi da prima... No, è dal blocco precedente. Rido una sotto cosa i che devi che lanciare ho. Stai già ridendo. No, ma mi capita. Lo sai che quando una roba mi fa ridere io non Siccome riesco... Io non l'ho proprio... vista, la voglio proprio vedere. Allora, tra l'altro io l'ho scoperta poche ore fa perché l'hanno messa su Facebook e The Jekyll. E poi ho visto che questo pomeriggio l'hanno ripresa anche i quotidiani. Quindi comincerà a essere siamo un po' sul pezzo. Siamo sul pezzo, la diffonderanno in rete oggi. Che allora, succede? Con parole tue, dillo. Bike sharing. Sì, a Napoli. La bicicletta. Sì. A Napoli. Qua promuoviamo. Arriva anche lo scooter, pare, a Milano. Come? Ah, faranno. Beh, io vabbè. Per me i mezzi devono avere da tre ruote in su, quindi non sono. Sì, io non sfido l'equilibrio, vabbè, il trattore, le leggi della natura. Sì, le leggi della natura, Marta, io non, però, non me la sento bene. Di sfidarle. Allora, bike sharing a Napoli lo promuoviamo, sì, con un video. E chi cosa è successo? Con un video? Il comune, il servizio, sì, appunto bike sharing della città. Cosa fanno i The Jekyll? Perlomeno l'hanno firmato loro, però l'hanno diffuso loro. No. C'è una ragazza che sale in macchina, no, io non credo che sia un attore, cioè ditemi che è vero, sale in macchina col nonno, sì, che è un signore anziano, nonno, che è un filininino nervoso in auto. Allora, ma scusa, ma chi è che riprende? Cos'è? Allora, periscope, no, del macchina nonno. Nascosta nell'angolo. Ah, telecamera nascosta. Torniamo a Nanni Loi. Esatto, che appunto a Napoli le faceva, sì, esatto, con grande successo. Nonni Sentiamo Loi. Il nonno che spinge involontariamente all'uso del bike sharing. Non vedi lì, niente, non si sa se è un semaforo, se è traffico. Se c'è sta cocca morta che hai stato usando per te. Luta! Lì, non c'è scasso! Che sai, mi ha fatto sbagliare la strada due anni fa. Ma fa un giro, non andava a volte perché avevo forzato, non andava a luce. Andato a pensare. Andato a pensare quando dice non l'ho, ricordo. E rotasse sotto in rota. Quando non è tuo papà, che cos'era, mamma mia. La strada bella, libera, pulita, non ci stava una carta in terra. Un minuto e mezzo. Poi, a manelli, un minuto e mezzo. Cancio sta traffico, mo. E quando spacci i semafori se stanno in questa città? Ma quando ce ne stanno? Una pressanata. La nipote è tranquilla, il nonno è impazzito perché questo è solo l'inizio. Cioè, quindi l'invito dello spot qual è? Cioè, non ho capito, allora, siccome in macchina siete nervosi. Passiamo in media 7 anni della nostra vita nel traffico, di questi ne passiamo almeno 6 arrabbiati, usa la bicicletta. Ecco, basta con la pandina. Ma perché il nonno poi... Cioè, che dice? C'è un'escalation. Non è finita perché qui. Perché qua era poco. No, sentiamo ancora il nonno. Quella che ha la macchinetta, quello che fa il giuletto, quello che puleggia il tergicristallo, quello che puleggia... è una mattinata dannata, come sempre. Tu non b***o, tu hai la macchina, va a pigliare la guaglione, non va a pigliare il sasso, non va a pigliare la guaglione. Non si cammina. Ma già fa? Non mi hai fatto sbagliare, non devo dare la strada, mi hai fatto sbagliare. Non rispondo, ma la macchina per dindota, non rispondere. A sto ciscariello che era? A cintura! La cintura, che cara, che rotture di cazzo! Oh, no. Mia. Ma perché stai andando a camo? Senti, non è lo spazio a me! Ma non è mai! Voglio capire lo spazio a me per arrivare a casa! A me arriva, a me! Capisci che secondo me non è un attore, è un po' un nonnino, È la pubblicità comparativa perfetta, uno prende la bicicletta per forza. Sì, stai sereno. È fantastico, cioè ma lui è... E se è pensata come pubblicità della bicicletta funzionerà. Ma guarda, è bellissimo, è di pochissime ore fa, è di pochissime ore fa perché The Jack l'hanno messa su Facebook tipo 20 ore fa, 19 ore fa e l'ho vista sui quotidiani online. Ma tu sei così quando vai in macchina? No, io però, no, ma sono molto aggressiva e sì. Mi arrabbio in Brianzolo. E come si arrabbia? No, non mi viene, a freddo, devo essere un po' accalorata. Ma più sono o meno, un po' aggressiva, vabbè. Io. Perché... Magari dopo ti faccio arrabbiare così sentiamo qualche insulto. Esatto, esatto. Ma... Parliamo di sciocchezze in rete. Sciocchezze. Ti ricordi l'estate scorsa? Non avevamo mai parlato a RadioTube perché non eravamo in onda l'Ice Bucket Challenge. Che si gettavano ne avevamo poi dopo parlato pochino al rientro, era un virale settembre. Tutti VIP e non VIP, presidenti degli Stati Uniti, avevamo parlato George Bush, tutti questi qui, per una campagna di donazioni contro la sclerosi multipla. Sì. Sono preparato e niente, acqua ghiacciata, una challenge, sì, per fatto anche motivi. Ovviamente Matteo Renzi, certo, per ottimi, un ottimo motivo. Io avevo difeso la cosa. Ma ci sono anche delle challenge per motivi totalmente idioti. Sì, beh, ce ne sono parecchi negli Stati Uniti. Sì. E spero che non si diffonda anche in Italia, perché lo stai di idiozie, tu lo stai per lasciare, sì, ma di idiozie ne ho sentite. Ma questa allora, la Kylie Jenner Lip Challenge. Cioè? Allora, Kylie Jenner è la sorella di Kim Kardashian. Ah, e c'ha dei bei labbroni così, un po' eleganti e soffici. Un po' soffici, ecco. Allora, come si fa a rendere... Don't try this at home, non fatelo. Come si fa a rendere le rabbia più carnose? Allora, si prende un oggetto cilindrico come una bottiglia di plastica, chiuso, si risucchia l'aria... E si tiene un po' sottovuoto. Ovviamente. Perché devi succhiare in una tipo un barattolo, no? E soffi con le labbra, così le labbra rimangono un po' ci vorrebbe periscopo adesso. Magari dopo lo accendiamo. Le labbra un po' risucchiate e si gonfiano, ovviamente. Sì, e poi? Però quando togli la bottiglia... Ecco, e poi allora ascoltiamo. Parlano in inglese, ma si capisce perfettamente cosa succede quando togli la bottiglia. Mom! Oh my god! I had a little too long! Oh my god! Look, y'all! Fantocci, è lei Fantocci. Perché praticamente si ritrovano dei canottoni enormi in mezzo alla bocca, non riescono più a parlare ste ragazze. Ma perché funziona, quindi? Sì, non è che faccia benissimo, cioè praticamente tu hai gonfiato le labbra tipo sottovuoto. Sei tu che hai deciso di parlarne, sembra mi colpevolizzi. Ma per dire che è il nuovo fenomeno della rete, idiota, perché in America lo stanno facendo tutti. Don't try this at home. Ma che roba, vabbè. Fenomeni della rete, fenomeni. Anche se... Il fenomeno della rete della settimana. Dai, è finito. Senza voltare pagina. È finito. Da un'idea di Stefano Accorso hanno deciso che era finito. Hai sofferto che il 1992 è finito. Ma guarda, il mio Mascai si rifiutava di cioè proprio io mettevo registra tutta la serie e lasciava House of Cards. Io impazzisco perché mi piace vedere come si accolora. Sì, perché il 92 era un dramma. Era un dramma, non era una roba di sesso. Mamma mia, com'è arrabbiato. Mi piace perché proprio come se fosse il Kylie Jenner Lip Challenge. Lo dico perché tutti poi mi dicono però la qualità dell'immagine, la regia era bellissima. D'accordo, va bene. Però è una questione di contenuti. Vabbè. Arrabbiato. Però Tea Falco. Che cosa c'ha lato? Tea arriviamo Falco. Arriviamo a Tea Falco finalmente. Di lei hanno parlato tutti. Perché era una degli attori del cast. Sì, cioè, e Stefano viene Corsi. Fuori nella seconda parte di più. Sì, perché c'è Stefano Accorsi. C'era Miriam Leone che fa l'aspirante su Brad. Preferisco che... lei. No, io invece sono per Tea Falco. Perché Leone. Alla fine Tea Falco emerge. Il suo essere così un'attrice un po' particolare emerge. Algida. Io ho trovato un video su YouTube in cui tutte le sue migliori performance. Suoi assolo. Ecco. Vengono montati uno dietro l'altro. Purtroppo in radio non vi posso mostrare i sottotitoli perché i sottotitoli sono straordinari. Però entriamo un po'. Nel personaggio. Se sentiamo quello che non è riuscito a fare lei. Bibi Mainaghi, no, è perfetta. Senti qua Tea Falco, la perfezione. Stanislavski, senti. Tea Falco. Beatrice Mainaghi. Enchanté, Beatrice. Piacere. Beh, ti rendi così? Non hai segreti tu? Luca, alza il telefono, dai. Per me la domenica è un giorno un po' cretino. Mi ricordo quando mi sono svegliata all'ospedale. La sera prima nessuno si era accorta che stavo male. Mio fratello era uscito. I miei erano andati a teatro. E mi ha detto, perché non esci? Vai a divertirti, dai. Mi ha dato 100.000 lire. A Stan Beginning. Cosa? A Stan Beginning è l'unica parola che conosco in olandese. Significa telecomando. A Stan Beginning, Daniele. È bellissimo. Sono un dialogo momenti. Tra lei e il presidente Ferrero. Sarebbe... È vero, dai. No, ma sarebbe stupendo. Bellissimo. Viperetta, che magari parla in inglese, e Tea Falco. Viperetta e Falco. Bellissimo. Guarda, bello, anche un po' così, un po' rettilornitologico. Ma ha fatto tanti altri film, questa attrice? Vabbè, ha fatto Bertolucci, insomma, roba importante. Perché la rete si è scatenata così? La rete si è scatenata assai. Beh, poi ci sono state un po' di cose, di vicende che non rivangheremo. La mamma, la zia, i parenti, insomma, una roba. Non rivanghiamo. Lasciamola resterà così. Resterà da un'idea di Stefano Accorsi? Forse ci sarà anche 1993. E alla speriamo perché Daniele Bellasio lo sta aspettando. Daniele Bellasio ha già puntato al MySky. MySky pronto per 93, 94, 95. Bello. Guarda, mi mancherà un po' questa serie solo per non vedere più Bellasio arrabbiato. Non è che sono arrabbiato, tu ne vuoi parlare, poi vabbè. Allora, dopo la pausa per il traffico del villaggio accendiamo Periscope, torniamo a fare un po' di Periscope, perché dobbiamo parlare con la vera prima Periscope star italiana. 500.000 cuoricini, un sacco di cuoricini per lui, che è bravissimo. Non vediamo l'ora di parlare con lui, lo andiamo a scovare, vabbè, in un posto bellissimo. Ci risentiamo tra poco perché è il momento di dare la linea al traffico. YouTube. Oh, come sono contenta, anche se il tempo passa troppo veloce. Dai, dopo veloce, 3 ore, giusto, ti meriti un po' di riposo. Sì, però un'ora sola di RadioTube, così passa troppo velocemente, mi diverto così tanto. E noi continuiamo su Periscope dopo. Ah, certo, facciamo un spin-off. Facciamo la quarta ora di Sabato del Villaggio su solo Periscope. Su Periscope. Con una regia particolare, però, pensa allora, che bello. Adesso sarebbe. Poi gli chiediamo dei consigli di regia, soprattutto per il tuo tremolio, che prima ci hanno detto tutti che eri un po' un disastro. Allora. Sì. Lui è attore, è regista e sa usare molto bene, anche scrittore, sa usare molto bene i social network e ha cominciato a giocherellare con Periscope. Io l'ho definito, e dice, voglio vedere se lo dici, certo che lo dico, è la prima Periscope star italiana. Sì, beh, certo, perché ha fatto parlare di Periscope grazie al suo risultato. Certo, perché posso dire che sì, ci sono cantanti famosi, Fiorello, cioè, Fiorello, Jovanotti, che però semplicemente riprendono il loro lavoro. Invece lui si è inventato un format, il suo format, il su Periscope. No. Adesso glielo facciamo raccontare. Abbiamo con noi, collegato da un posto bellissimo, Giulio Base. Buonasera Giulio. Buonasera. Oh, buonasera. La prima Periscope star italiana è con noi. YouTube, che bello, sono emozionato. Lo posso tatuare su un occhio, tipo. Sono la prima Periscope star italiana. Ma dai, è vero Giulio. Allora aspetta, prima vorrei far sentire i tuoi ringraziamenti, perché c'è qualcosa di molto importante che hai fatto per i tuoi primi 500.000 cuoricini. Okay. 500.000 cuoricini su Periscope. I want to thank all of you for the great achievement that I had. 500,000 hearts. Thank you very much, people. It's unbelievable for me because that's a great achievement and I... Allora, 500.000 cuoricini è come se fossero i like su Periscope, perché basta fare pat pat sullo schermo e appaiono i cuoricini, cioè i segni di gradimento, e tu ringrazi in inglese perché veramente ti seguono da tutto il mondo. Tu fai queste passeggiate bellissime per Roma, ma non solo, parlando in inglese, quindi ti possono seguire da tutto il mondo, e questa cosa ha avuto un successo straordinario, Giulio. Sì, è inaspettato, devo dire, veramente inaspettato, e quindi anch'io mi sto interrogando perché forse alcune risposte me le hai date tu in questa domanda, e quindi ti ringrazio. Cioè, l'inglese, io credo che la chiave sia quella, perché evidentemente i primi giorni che mi sono messo a guardare Periscope, soprattutto comunicavo appunto con persone dall'altra parte del mondo, l'Arabia Saudita, l'America, la Russia, l'Africa, l'Australia, e vedevo che l'unico modo di comunicare era appunto la lingua che oggi è l'esperanto moderno, cioè l'inglese. Quindi dal mio primo Periscope sono partito in inglese. Ho la fortuna di vivere a Roma, che è, senza essere sciovinista, forse fra le città più belle del mondo. Se ovviamente fossi nella periferia, non so, non voglio offendere nessuno, ma diciamo più degradata o meno affascinante, questo non sarebbe accaduto. Detto questo, mi sto divertendo da morire, mi piace da morire. E poi forse un'altra, diciamo, stile, visto che tu l'hai chiamato format, è il fatto che non è una diretta normale, è una diretta interattiva. Questo è il grande cambio. Cioè, tu vedi mentre giri i commenti in diretta o le domande in diretta o i cuori in diretta delle persone che ti stanno guardando, e quindi se tu vuoi interagisci, cosa che a me piace molto, e quindi interagisco con tutti nelle lingue che so parlare. Alcune ogni tanto mi dicono, sai il cinese, sai il turco, sai, quelle non le so, e quindi là mi fermo e continuo in inglese. Però è un'esperienza per il momento meravigliosa e divertente, e sono anch'io veramente incredulo della quantità di attestati e appunto di likes, come l'hai chiamati tu, perché non me l'aspettavo. Ecco, doveri ieri, sentiamo, perché anche qui hai fatto un live su Periscope, eccolo qua. Poet called Giacomo Leopardi, this is the Teatro Rossini, are you a composer? No, I'm an actor, people are already entered in a theater, this is the theater, hello, hello, ciao grande gobbo, ciao a voi, I play here. Good evening, sir. Good evening. Cosa reciti? Leopardi. Bene. Ciao. Ciao, ragazzi. How are you? I'm fine. What are you acting in? I'm acting in a Giacomo Leopardi poems. What's up? Ciao from New York City. Hello, New York City. Look at this beautiful little city in central Italy. Appunto, è nelle Marche. Stavi per andare a teatro e così mostri anche le bellezze in giro. È bellissimo. Sì, in effetti è facile, perché l'Italia è meravigliosa. Cioè, quando si apre Periscope, per chi non ha mai provato, la domanda che ti fa Periscope, o meglio lo schermo, ti interroga che cosa vedi in inglese, what are you seeing now? Se tu rispondi a questa domanda con sincerità, già hai fatto qualcosa. Se viceversa invece la punti su di te, questa telecamera non è cosa vedi, è cosa vuoi far vedere, cioè vuoi far vedere te stesso. Questo io ancora non l'ho quasi mai fatto, tranne appunto quando ho ringraziato. Comunque è stato scioccante, lo sai, risentirsi, perché ovviamente faccio le live ma non mi ripeto. Certo. Adesso capisco perché tutti mi dicono, oddio quanto parli veloce, perché effettivamente cercando di leggere tutti i commenti di tutti e rispondendo velocemente a tutti, effettivamente vado veloce, me ne sono accorto. Sì. Senti, ma cosa puoi rispondere a chi dice, però Periscope è uno strumento in realtà che rispetto agli altri social network ha bisogno di una professionalità, cioè per forza Giulio Base funziona perché è regista, attore, conosce il mezzo, la tecnica, e quindi ha successo. Quindi come fosse un social network un po' troppo professionale, qualcuno sta distante proprio per questo. Beh, secondo me necessita la stessa professionalità che necessita se tu stai su Facebook e sei analfabeta, o su Twitter e sei analfabeta, cioè devi sapere minimamente fare le cose che sai fare. È evidente che la professionalità, e in questo caso la mia professionalità, che è quella appunto di che cosa stai vedendo, cioè di raccontare agli altri secondo il tuo sguardo, no? Quante volte la metafora è gli occhi del regista, lo sguardo del regista, in questo caso Periscope è uno sguardo, quindi è evidente che c'è un minimo di sensibilità in più. Però io non credo che vada valutato nel successo la piacevolezza di essere su un social network. È evidente che io in questo momento sono super contento di questo risultato, ripeto, inaspettato e incredibile, se vogliamo. Però se avessi avuto anche soltanto 100 persone mi sarei divertito lo stesso. Io i primi giorni avevo così persone normali che mi seguivano e mi divertivo, cioè non farei diciamo la relazione tra professionalità e quindi ovvia capacità di usare una telecamera in questo caso. Anche però se devo dirti che prima Daniele Bellasio ha fatto un periscopio, sì, si lamentavano perché diceva ci fai venire il mal di mare. Peraltro adesso tu lo stai certo, facendo quello, però lo sforzo di mettere la manina un po' ferma, quello anche se non sei proprio un grande regista lo puoi fare. Sì, sì, quello lo si no, cioè stai un po' fermo con quella manina. Adesso ci provo. Non ballottolare. Senti, ma secondo te quanto è potente come mezzo? Cioè, siamo io guarda, per me è veramente il futuro. A me in questo sono, lo dico, sono un fan, ma anche perché c'è un dietro le quinte, se vuoi. Io 4-5 anni fa avevo pensato un network che è Periscope, esattamente questo, che si chiamava Open. Ah. Ho depositato, ho provato, il notaio, tutto quanto. Poi non ha funzionato, non c'era la tecnologia, non lo so. Nel momento in cui è nato Periscope, da un lato avevo la voglia di mangiarmi le mani per il nervoso che qualcun altro avesse fatto al posto mio. Dall'altro era comunque un sogno realizzato, perché una cosa che ho pensato è che comunque ora esiste. Per cui per me è il futuro vero, in cui non puoi mentire, non puoi essere un fake, non puoi mettere filtri, non puoi manipolare le immagini, al momento almeno. Non puoi niente, e sei dal vivo, sei tu, sei nudo in qualche modo, o è nudo la tua cameretta, o è nudo quello che vedono i tuoi occhi, per l'appunto. E tutti hanno davvero la possibilità di far vedere dove sono. Tu pensa in territori in cui anche voi giornalisti non potete andare, certo. In cui c'è chiunque con un telefonino invece può fare delle cose, oppure mostrare le bellezze. Io sono entusiasta tout court. Straordinario, grazie Giulio Base, i suoi 500.000 cuoricini su Periscope. Noi dobbiamo salutarvi. Siamo 600.000 oggi. 600.000, ciao a tutti, ciao, a sabato prossimo. Ciao.